sole chi l'ha spento sei tu. Ma quando un altro dal mio cuore ti può innamorare, non mi voglio mai più e nessun'altra cercherò. Io cercherò